Con Elena Guerrini, la curatrice della dodicesima edizione di Avveglia, Teatro del Baratto a Manciano, provincia di Grosseto, dal 13 al 16 settembre. Bentrovata Elena. Ciao, ciao, ben trovato a te e a voi ascoltatori. Come sempre, spieghiamo a chi non conoscesse cos'è questo Avveglia. Ma sì, è il Festival del Teatro Col Baratto, unica realtà che ho ideato appunto ben 12 anni fa, dove il biglietto d'ingresso si paga non con un biglietto di 10 o 15 euro, ma con un dono non monetario, quindi in natura, olio, vino, formaggio. Ma oltre questa particolarità, è un festival sulla drammaturgia contemporanea e sulla narrazione, con le eccellenze e i migliori nomi del teatro italiano. Allora, come si caratterizza questa edizione, questi 4 giorni? Ma allora, questi 4 giorni che saranno dal 13 al 16 di settembre, il tema è la scuola, è proprio la scuola siamo noi, nessuno si sente escluso, parafrasando un po' il noto cantautore, chi è? Questo facciamo un piccolo quiz per gli ascoltatori. Non è la storia siamo noi, ma appunto la scuola siamo noi, nessuno si senta escluso, narrazioni pedagogiche, comiche, contemporanee. E avremo Fabrizio Martorelli con Peppa Pig prende coscienza di essere un suino di Davide Carnevali che aprirà il festival. Quest'anno il festival non sarà più legato ai piccoli cortili delle case, ma sarà in piazze un po' più grandi, quindi in piazza Garibaldi. E poi Gigi Gerti con Diario tra i banchi, sarà uno spettacolo fatto col pubblico seduto nella sala del Consiglio Comunale, proprio ai banchi, e speriamo che da qui ci sia un vero cambio anche nel percepire la vita, la politica e la comunità. Poi abbiamo Giuseppe Semeraro con lo spettacolo su Danilo Dolci, Digiunando davanti al mare, abbiamo Luigi D'Elia con lo spettacolo su Don Milani, la narrazione su Don Milani. Qui più che spettacoli sono narrazioni, l'autore non solo fa lo spettacolo e poi va via, ma parla di quello che è lo spettacolo, e abbiamo anche la fortuna di ospitare l'autore, Francesco Niccolini, già autore di Vaillant, uno dei più importanti autori teatrali italiani, che parlano di attualità e teatro, che farà poi un incontro su narrare il presente. Per chiudere poi con un concerto, Davide Zini, il professore cantautore, con Il congiuntivo se ne va, il sabato poi ci sarà anche un grande convegno, un simposio intitolato La sagra della cultura, idee, condivisione e azione al Palazzo del Castello Comunale. Ma la cosa quest'anno meravigliosa è che ci sarà un pranzo di tutto il paese la domenica, quindi alle 13, il pranzo del Tascapane, con un tavolo di 50 metri che accoglierà tutto il paese a pranzo, e dopo il pranzo lo spettacolo di Antonello Taurino, quindi un comico che è passato anche a Zelig, comico professore, con La scuola non serve, lo spettacolo suo che farà molto probabilmente su un palco montato su un appetto. E quindi un programma molto particolare, che proprio ci faccia scoprire l'idea del teatro come comunità. Lo chiamo sagra della cultura perché sagra vuol dire sacro, e quindi per dare sacralità al teatro, che è socialità e scambio, deve essere alla base delle relazioni umane. Sì. Elena, come ha funzionato la ricerca dei finanziamenti quest'anno? Da quest'anno la ricerca dei finanziamenti è su due fronti, un fronte paesano e un fronte nazionale. Sul fronte nazionale chiunque può donare per il festival andando sul sito GoFundMe, scritto GoFundMe, e cercare Avveglia Teatro del Baratto, e lì cliccando con la carta di credito, anche con PayPal, si può mettere da 1 euro a 5 euro. Abbiamo iniziato questa raccolta fondi. E poi, mentre realmente, visto che siamo in una società liquida, il tè della Maremma, la birra della Maremma e il vino finanziano il festival. I produttori locali di vino e di birra e la casa editrice Narratè mi hanno donato dei prodotti da vendere con il marchio del festival per finanziare il festival. Quindi sto proprio allestendo il banchetto adesso alla festa delle cantine a Manciano. Senti, per tutti i riferimenti web ci dai degli indirizzi? Sì. Riferimenti web, allora, la mia pagina Facebook, Arena Guerrini, che è la migliore. Poi saremo il programma in questi giorni su Avveglia, Teatro a Baracco, blogspot.it. Ma il modo più diretto è dalla mia pagina Facebook, Arena Guerrini, dove puntualmente c'è il programma e l'album del festival tutti i giorni. Quindi Elena Guerrini su Facebook, quella che sono io, e anche il numero di telefono per messaggi WhatsApp 339-8512-693. Dodicesima edizione di Avveglia, Teatro del Baratto a Manciano, provincia di Grosseto, dal 13 al 16 settembre. Un abbraccio ad Elena Guerrini e ci si vede lì, Elena. E assolutamente ci si vede lì, perché sarete assolutamente i partner del festival. Che bello. A presto. A presto, ciao.